Cristo è abbagnato questo disgelo che la tiepida stagione nida. L'ombra del salice si allunga sul muro mentre la bimba viene da me. Nella lacrima si scioglie il suo dolore e il mio sorriso è in lei. E allora dondola piccina, dondola, che giorni allegri sono quelli aperti davanti a te. Io ti ho vista in sogno di primavera in cui saresti venuta da me. Nuda è la vita e l'attesa di un tenero abbraccio di figlia, la veste di malinconia. Poi sei giunta in un giorno stupendo all'incanto, ma rapito di te. Ed ora dondola piccina, dondola, che la mia vita adesso è ricca e piena del lume di te.